Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tommaso Ragno legge Camera con vista, di Edward Morgan Forster. Introduzione di Sandra Petrignani. Le regole base del romanzo, secondo Forster, e direi che possiamo dargli tranquillamente ragione, sono tre. Uno, il romanzo racconta una storia di una determinata durata. Due, nel romanzo deve accadere qualcosa a qualcuno. Tre, il romanzo racconta la vita nascosta dei personaggi. Ecco, io credo che se leggere Forster è tuttora un'esperienza piacevolissima, e nutriente, e appagante, è proprio perché lui non si sogna mai di trasgredirle queste regole. Prendiamo Camera con vista, che è un bel film di James Ivory in tempi vicini a noi ha reso ancora più famoso e che oggi cominciamo ad ascoltare in questa lettura radiofonica. Camera con vista è un romanzo giovanile, il terzo che ha scritto, secondo romanzo italiano per dir così, e fra un momento vi spiego perché lo definisco in questo modo. È del 1908. Edward Morgan Forster era nato il 1 gennaio del 1879, aveva quindi al momento della composizione di Camera con vista 29 anni. Era giovane, non giovanissimo, e aveva soprattutto già rodato attraverso un abbozzo di romanzo mai portato a termine, attraverso Monteriano, Il cammino più lungo, la sua tecnica narrativa. Ma soprattutto aveva fatto l'esperienza centrale della sua giovinezza, un'esperienza che aveva in comune con tanti inglesi della buona borghesia di quegli anni, e questa esperienza era il viaggio in Italia. Però, mentre per altri un viaggio in Italia restava solo uno spostamento nello spazio, anche se molto emozionante, anche se era una vera avventura dello spirito, per lui diventò l'incarnazione stessa del suo mondo spirituale, cioè la visualizzazione concreta, diciamo così, in un luogo geografico preciso di un'aspirazione profonda di tutto il suo essere. L'Italia divenne un luogo mitico, destinato a ispirarlo con grandissima potenza. E, un luogo mitico dove la prevalenza dei sentimenti sulle rigide regole inglesi di comportamento era evidente, era sconvolgente. Naturalmente si trattò della proiezione interna sul luogo esteriore di un suo personale conflitto, di un suo bisogno di contrapporre tradizione e modernità, ipocrisia e sincerità, mondo asfittico di precetti sociali e mondo libero della natura. Era stato un ragazzo dolce, introverso, Forster. Aveva perso il padre, un architetto di buona famiglia, ad appena un anno. Dunque era cresciuto a stretto contatto con la madre, Clara Wicklow, che era invece di umili origini. Clara aveva fatto la governante prima di sposarsi, proprio come Jane Eyre, quell'eroina di un romanzo di Charlotte Bronte che, guarda caso, Forster amava tantissimo. Ed era cresciuto in un universo tutto femminile, fra zie e amiche di famiglia. E così si era legato alla madre in un rapporto addirittura morboso, che durò tutta la vita e che sicuramente ebbe qualche responsabilità sullo sviluppo omosessuale della sessualità di Forster. Forster poi accettò la sua omosessualità solo durante la Prima Guerra Mondiale e a contatto con un mondo ancora più solare dell'Italia, cioè l'Africa, l'Egitto. E, ecco, detto per inciso, Forster fu anche un grande viaggiatore e un giornalista, e non a caso il suo romanzo più bello e famoso, Passaggio in India, è ambientato in India, appunto. Ma torniamo ancora un momento a Camera con vista, e solo per raccontarvene per somme linee la trama, verificando come si attenne effettivamente alle tre regole del romanzo che vi dicevo all'inizio. La storia si svolge nella prima parte a Firenze, dove troviamo la protagonista Lucy Honeychurch, accompagnata da una cugina zitella, Miss Charlotte Bartlett, e al centro di una pittoresca combriccola di inglesi in vacanza. Fra questi c'è una bizzarra coppia di padre e figlio, e il figlio si chiama George ed è il ragazzo di cui Lucy si innamorerà entrando in conflitto una volta tornata in Inghilterra con la decisione di fare un matrimonio vantaggioso e rassicurante secondo le regole sociali del suo ambiente, al riparo dalla passionalità. Le cose, come vedremo, andranno in tutt'altro modo. E adesso ascoltiamo la lettura di Tommaso Ragno. La signora non aveva il diritto di agire così, disse la signorina Bartlett. Non ne aveva affatto il diritto. Ci aveva promesso due camere comunicanti con vista, esposte a mezzogiorno, e queste invece sono esposte a nord, capisci? E danno su una corte, e c'è in mezzo una bella distanza. Oh, Lucy. E quella donna è una cockney di razza, per giunta, disse Lucy, che era rimasta ancora più infastidita dall'accento inatteso della signora. Pare di essere a Londra. Osservò le due file di inglesi che sedevano alla tavola da pranzo, le caraffe dell'acqua e le bottiglie del vino allineate davanti agli inglesi, i ritratti della defunta regina e del poeta laureato che nelle loro cornici massicce sovrastavano alle spalle degli inglesi, e l'avviso della chiesa inglese, reverendo Cuthbert Eager, dottore in lettere, Oxford, che era l'unica decorazione della parete, oltre ai ritratti. Charlotte, non trovi anche tu che pare di essere a Londra? Stento a credere che basti uscire in strada per scoprire cose di tutt'altra specie. Deve dipendere dalla stanchezza. Questa carne è servita senza dubbio per fare la minestra, disse la signorina Bartlett posando la forchetta. Oh, ci tenevo tanto a vedere l'Arno. Le camere che la signora ci aveva promesso per lettera dovevano guardare sul fiume. No, non aveva il diritto di comportarsi così. Oh, che vergogna. Per me va bene un qualsiasi bugigattolo, ricominciò la signorina Bartlett, ma mi duole assai che tu non possa godere la vista. Lucy si sentì colpevole di egoismo. Sta attenta a non viziarmi, Charlotte. Anche tu devi avere la vista sull'Arno. Naturalmente è questo che volevo dire. La prima camera sul davanti che si renderà libera... Spetterate! Interruppe la signorina Bartlett, le cui spese di viaggio erano parzialmente sostenute dalla madre di Lucy, e che non si lasciava sfuggire l'occasione di alludere contatto alla generosità della parente. No, no, no, no. L'avrai tu. No, non insistere, cara. Tua madre non me lo perdonerebbe mai. Non lo perdonerebbe a me, invece. Le voci delle due donne si fecero animate e, se vogliamo ammettere la triste verità, leggermente risentite. Erano stanche ambedue e litigavano sotto la maschera dell'altruismo. Alcuni dei loro vicini di tavola si scambiarono un'occhiata e uno, in particolare, uno di quei maleducati nei quali capita di imbattersi all'estero, si sporse in avanti e si intromise senza complimenti nella discussione. «Io la vista ce l'ho», disse. «Sì che ce l'ho». La signorina Bartlett trasalì. In genere, gli ospiti delle pensioni dove si fermavano le sottoponevano a scrupoloso esame per un paio di giorni prima di rivolgere loro la parola, e spesso non scoprivano che potevano passare finché non fossero ripartite. Fu quindi sicura che l'intruso era maleducato, ancor prima di sbirciarlo un momento. Vide un vecchio di corporatura pesante, dalla faccia chiara, sbarbata, e gli occhi grandi. Occhi improntati di un non so che di infantile, sebbene non fosse l'infantilismo della senilità. In che cosa consistesse di preciso, la signorina Bartlett non indugiò a ponderarlo, perché il suo sguardo si spostò sugli abiti dello sconosciuto. E questi non la trassero affatto. Stimò probabile che quel tizio stesse cercando di stabilire un rapporto con loro prima che si fossero inserite nella piccola cerchia. Assunse dunque un'espressione attonita quando lui le parlò e poi disse: «La vista? Oh, la vista! Che delizia avere una vista!» «Questo è mio figlio», soggiunse il vecchio. «Si chiama George. La vista ce l'ha pure lui». «Ah!» esclamò la signorina Bartlett per togliere la parola di bocca a Lucy. «Volevo dire che potete pigliarvi le nostre camere e noi ci pigliamo le vostre», proseguì lo sconosciuto. «Facciamo a cambio». I turisti della categoria superiore si scandalizzarono di quella battuta inusitata e presero in cuor loro le parti delle nuove venute. La signorina Bartlett, per tutta risposta, socchiuse le labbra il minimo necessario a dire «mille grazie, ma non è il caso di parlarne». «E perché?» chiese il vecchio, piantando i pugni sulla tovaglia. «Perché non è assolutamente il caso di parlarne, e grazie ancora. Capisce, cominciò Lucy. A noi non va di accettare. La cugina la costrinse nuovamente a tacere. Ma perché? Insisté il vecchio. Le donne si divertono a guardare la vista e gli uomini no. Batté i pugni sulla tavola come un bambino riottoso e si rivolse al figlio dicendogli: George, convincile tu. È chiaro che dovrebbero pigliarsi le nostre camere, rispose il giovane. Non c'è altro da dire. Mentre parlava, George non posò un attimo gli occhi sulle due signore, ma la sua voce fu perplessa e addolorata. Lucy rimase perplessa anche lei. Capiva che la situazione minacciava di degenerare in una scenata e aveva la curiosa sensazione che ogni qualvolta quei maleducati turisti aprivano bocca, il contrasto si dilatasse e si acuisse, fino a vertere non già sulle camere di una pensione e sulla vista che si godeva dalle finestre, ma su qualcosa di tutt'altra natura della cui esistenza non si era mai accorta fino a quel momento. Ecco che il vecchio aggrediva quasi violentemente la signorina Bartlett. Perché non avrebbe dovuto cambiare stanza? Quali obiezioni poteva avere mai? Lui e suo figlio sarebbero stati pronti a sloggiare entro mezz'ora. La signorina Bartlett, malgrado la sua padronanza delle finezze della conversazione, fu impotente di fronte alla brutalità. Impossibile infliggere uno smacco a un essere tanto volgare. Avvampò di sdegno, volse in giro lo sguardo quasi a chiedere ai commensali: «Siete tutti così?» E due vecchiette sedute a una certa distanza, entrambe con lo scialle penzoloni dalla spalliera della sedia, ricambiarono il suo sguardo e i loro occhi espressero chiaramente la risposta: «Noi no, siamo gente distinta». Noi due. Mangia, mia cara, disse la signorina Bartlett a Lucy, e ricominciò a gingillarsi con la carne che aveva criticato poc'anzi. Lucy borbottò che quelle persone di rimpetto dovevano essere parecchio strambe. Mangia, mia cara, questa pensione è stata un fallimento. Domani cambieremo alloggio. Aveva appena annunciato la fiera decisione che la revocò. Si scostarono le tende in fondo alla stanza e rivelarono un sacerdote, corpulento ma di aspetto gradevole, che avanzò in fretta per occupare il proprio posto a tavola, scusandosi allegramente del ritardo. Lucy, non ancora pratica delle convenienze mondane, balzò subito in piedi esclamando: «Oh, guarda che si vede, il signor Bibb, che bellezza! Charlotte, adesso dobbiamo rimanere, anche se le camere sono un disastro!» La signorina Bartlett, con maggior ritegno, disse: «Buonasera, signor Bibb, come sta?» Non può ricordarsi di noi, naturalmente. Siamo Charlotte Bartlett e Lucy Honeychurch. Eravamo a Tunbridge Wells quando lei prestava il suo aiuto al vicario di St. Peter durante quella Pasqua freddissima. L'ecclesiastico, che aveva tutta l'aria di essere in vacanza, non ricordava le due signore con la stessa esattezza con cui loro ricordavano lui, ma venne avanti abbastanza giovialmente e accettò la sedia che Lucy gli indicava accanto a sé. «Sono proprio contenta di vederla», disse la ragazza, che si trovava in uno stato d'animo di inedia spirituale, e sarebbe stata contenta di vedere perfino il cameriere se la cugina gliel'avesse permesso. Pensi un po' quanto è piccolo il mondo. E poi Summer Street rende ancora più buffo il nostro incontro. La signorina Honeychurch abita nella parrocchia di Summer Street, intervenne la signorina Bartlett per colmare la lacuna. E giusto appunto nel corso della conversazione mi diceva che lei ha appena accettato il beneficio. Sì, me l'ha scritto la mamma la settimana scorsa. Non sapeva che ci eravamo già conosciuti a Tunbridge Wells, ma io le ho risposto a giro di posta e ho detto: il signor Bibb è... Esatto, confermò il sacerdote. A giugno mi insedierò nel rettorato di Summer Street. Mi compiaccio la prospettiva di svolgere le mie mansioni in un ambiente così simpatico. Ah, che gioia sarà per me! La nostra casa si chiama Windy Corner. Il signor Bibb si inchinò. Di solito ci siamo mia madre e io, e anche mio fratello, benché non riusciamo spesso a trascinarlo in chiesa. Ossia, la chiesa è un po' lontana. Carissima Lucy, lascia mangiare il signor Bibb. Sto mangiando, grazie. E di gusto. Il signor Bibb preferiva conversare con Lucy, di cui ricordava un'esecuzione al pianoforte, invece che con la signorina Bartlett, che probabilmente ricordava i suoi sermoni. Domandò alla ragazza se conosceva bene Firenze e fu informato, non senza prolissità, che ci veniva per la prima volta. Ah, è una grande soddisfazione dar consigli ai nuovi arrivati, e non c'era nessuno a contendergli quella prerogativa. Non trascurate la campagna dei dintorni, fu l'ultima raccomandazione del signor Bibb. Appena capita un pomeriggio di bel tempo, fate una scarrozzata a Fiesole, con ritorno da Settignano o da un altro di quei paesetti. No! Gridò una voce in fondo alla tavola. Lei sbaglia, signor Bibb. Il primo pomeriggio di bel tempo le sue signore debbono andare a Prato. Quella donna ha l'aria così competente, sussurrò la signorina Bartlett alla cugina. Siamo fortunate. E in effetti le travolse un rapinoso torrente di informazioni. I commensali spiegarono loro quali cose meritava la pena di vedere, quando bisognava vederle, come si faceva a fermare il tram elettrico, come si riusciva a sbarazzarsi dei mendicanti, quanto si doveva pagare un sottomano legato in carta pecora e in che misura avrebbero subito la suggestione della città. La pensione Bertolini aveva deciso quasi entusiasticamente che quelle due potevano passare. Dovunque si girassero, premurose signore sorridevano e urlavano esortazioni benigne, e sopra ogni altra si levò la voce della competente ignota che gridava: «A Prato! Debbono andare a Prato! È un luogo di squallore troppo adorabile perché si possa descriverlo a parole. Io lo amo, me la godo, come ben sapete, a scrollarmi di dosso i ceppi della rispettabilità!» Il giovane, che si chiamava George, lanciò uno sguardo alla competente signora e poi, con aria immusonita, tornò alle prese con il proprio piatto. Saltava agli occhi che né lui né suo padre potevano passare. Lucy, nel pieno del successo ottenuto, trovò il tempo di rimpiangere che non la potessero. Non provava un piacere speciale nel vedere sbattere l'uscio in faccia a un suo simile. E quando si alzò per andarsene dalla sala da pranzo, si volse e abbozzò un inchino nervoso ai due estranei. Il padre non se ne accorse, il figlio invece gliene diede atto, non già ricambiando l'inchino, ma inarcando i sopraccigli e sorridendo. Sembrava che sorridesse al di là di qualcosa. Lucy affrettò il passo per raggiungere la cugina, che era già scomparsa dietro le tende, tende che percuotevano in faccia e non sembravano rese pesanti unicamente dalla stoffa. Dietro quelle tende stava la malfida signora, che augurava la buonasera ai propri ospiti con una riverenza, affiancata dai figli, il piccolo Henry e Victoria. Henry e Victorier, nella pronuncia plebea della madre. Costituiva una scenetta curiosa, quel tentativo d'una tipica Cockney di rendere l'idea della grazia e dell'affabilità del Sud. E ancora più curioso appariva il salotto, che si piccava di rivaleggiare con le solide comodità d'una pensione di Bloomsbury. Era davvero l'Italia, questa? La signorina Bartlett si era già seduta in una poltrona dall'imbottitura durissima, del colore della sagoma d'un pomodoro. Discorreva col signor Bibb, e nel frattempo spingeva la testa lunga e stretta avanti e indietro, lentamente, regolarmente, quasi fosse impegnata a demolire un ostacolo invisibile. «Le siamo infinitamente riconoscenti», diceva. «La prima sera ha tanta importanza. Quando lei è arrivato, stavamo passando un mauvais quart d'heure particolarmente sgradevole». Il signor Bibb espresse il proprio rammarico. «Saprebbe dirmi per caso come si chiama quel vecchio che a tavola sedeva di fronte a noi?» «Emerson. È un suo amico? Siamo in rapporti amichevoli, quei rapporti che si allacciano nelle pensioni. Allora non dirò altro». L'interlocutore la spronò con estrema delicatezza, e lei disse dell'altro. «Io sono, tanto per intenderci, lo chaperon della mia giovane cugina», concluse, «e sarebbe un affare serio se per colpa mia Lucy dovesse sentirsi in obbligo verso persone sul conto delle quali non sappiamo nulla. La condotta di quell'uomo è stata alquanto inopportuna. Spero di aver agito per il meglio». «Lei ha agito come c'era da aspettarselo», rispose il signor Bibb. Apparve soprapensiero e dopo un po' soggiunse: «Tuttavia non credo che sarebbe stato un gran male accettare la sua offerta». Tommaso Ragno ha letto Camera con vista di Edward Morgan Forster, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it.